Cambiano le calce, cambieranno i calci. Sì, era così, no? Funziona così, ma c'è qualcosa che non quadra. Italia va il calcio e devi scegliere una squadra. Schemi mentali di una società malata che da sola seleziona solo gente omologata. La creatività è punita, la fantasia non apprezzata. L'originalità non viene calcolata. E se spunta fuori un gruppo che vuole cambiare strada, la minoranza nata viene al volo emarginata. Società manipolata inconsciamente a consenso. Vivere un regime di regole non scritte, norme di comportamento per tenerci buoni. Pena per non essere d'accordo, essere soli. Davvero muove le pedine, resta sempre lì. E noi belli mansueti resteremo qui. Da piccoli addestrati affinché sia così. Quando parla la TV diciamo in tutti i casi sì. Cambia la moda e cambieranno i tuoi vestiti. Cambi scuola e cambieranno i tuoi amici. Cambiano gli amici e cambieranno i tuoi nemici. Io starò con i miei soci a guardarvi non ridi. Qual è la sensazione quando pensi al mio nome? Lo fai solo per l'onore e consapevolezza d'essere inferiore. No, perché è strano, fino a ieri mi stringevi la mano. Adesso quello sguardo vola lontano. Cos'è? Manca il coraggio di guardarmi in faccia. Troppi compromessi con la tua vitaccia. Hey, chissà un giorno forse mi darai del lei. Quando dietro ad un bancone venderai vestiti gay. Io ci tengo a rimanere diverso da sto cesso. Fanculo questo posto, non mi serve il tuo consenso. Se per essere me stesso pagherò questo prezzo. Adeguarmi a tutto il resto, meglio morire adesso. Siamo diversi, tu su uno e io sull'altro polo. Da solo, nessuno a cui lecco il culo. Nessuno per il cale, cambierò ciò che sono. Di maso per fortuna in giro ne trovi uno solo. Cambia la moda e cambieranno i tuoi vestiti. Cambi scuola e cambieranno i tuoi amici. Cambiano gli amici e cambieranno i tuoi nemici. Io starò con i miei soci a guardarvi non riditi. Schifo, è quello che sento. Siete solo bandiere cambiate col vento. Sì, sono asociale e me ne vanto. Ma che tu sia una pecora è vero al 100%. C'è chi è fascista perché fascia violenza. Serve la violenza, non si rimorchia senza. C'è chi è una zecca, falce e martello in stanze. Genitori coi milioni in Egitto in vacanza. Importante avere un gruppo d'appartenenza, dentro il quale in mezzo a tanti celare ogni debolezza. Non avere niente di propria invenzione in testa. La personalità cambierà all'occorrenza. Pensi di essere diverso? Beh, non è vero. Dentro questo mondo conti meno di zero. Sparirai tra la massa e sai che non è un mistero. Vita squallida e monotona, questo è il tuo futuro. Cambia la moda e cambieranno i tuoi vestiti. Cambi scuola e cambieranno i tuoi amici. Cambiano gli amici e cambieranno i tuoi nemici. Io starò con i miei soci a guardarvi non riditi. Cambia la moda, cambiano gli amici. Cambiano gli amori, cambiano gli umori. Là fuori, gente che medita una vendetta. WZ non ha fretta, la serve fretta. Pochi principi, pochi principi. Pochi principi, pochi principi. Pochi principi giù in strada. Pochi principi. Prima o poi se nebbia si dirada. Mi dirada. Dirada. Rada.